Oggi ricordiamo un grandissimo santo, Sant'Ignazio di Loyola, e uno dei giganti della Chiesa. E un santo è santo, certamente, ma c'è santità e santità, grandezza e grandezza. C'è magari un santo di paese, e c'è un santo, Francesco, Domenico, Ignazio, Don Bosco, che fondano degli istituti che durano nei secoli. Ancora oggi la Compagnia di Gesù, i Gesuiti, se non sono male informato, è l'istituto religioso, l'ordine religioso che ha più aderenti in tutto il mondo. Se non sbaglio, più dei francescani, più dei salesiani, più... Anche se presso la gente, soprattutto quelli che si ritengono più acculturati, dire gesuita vuol dire metterci sempre dentro anche una punta di sospetto, una punta di critica. Beh, nei santi... Noi dobbiamo andare a scoprire le opere che hanno fatto. Gli ordini religiosi sono il loro capolavoro, ma dobbiamo andare a cercare anche gli insegnamenti che hanno dato. San Francesco è grande, ma se noi leggiamo alcune sue frasi sono stupefacenti. Don Bosco è grande, ma ha lasciato di quegli scritti che ancora oggi sono di grande insegnamento. Sant'Ignazio di Loyola, credo che quasi nessuno conosca i suoi scritti invece. E invece c'è una autobiografia bellissima, se vi capita di leggerla, vincete al Totocalcio, Racconto di un pellegrino, dove lui parla di se stesso in terza persona mentre sta andando in pellegrinaggio verso la Terra Santa, verso Gesù. E poi i famosissimi esercizi spirituali, il mese ignaziano, tanti ne parlano ma nessuno lo conosce. Io ho avuto la fortuna e il dono di farlo l'anno prima che diventassi prete. Ho fatto il mese ignaziano, che sono 26 giorni consecutivi di esercizi spirituali. E quando li ho fatti io 50 anni fa, si facevano col silenzio. Un'esperienza forte, anche dura, ma stupefacente. Ora, siccome non posso però raccontarvi tutta la storia di Sant'Ignazio, vi voglio consegnare due insegnamenti. Il primo insegnamento è sul discernimento degli spiriti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dentro di noi si agitano sempre delle ispirazioni degli spiriti che ci spingono sia al bene che al male. Dobbiamo saperli distinguere, il discernimento. Alcuni sono facilissimi da capire, l'ira è uno spirito cattivo, la dolcezza, la generosità è uno spirito buono, ma ci sono alcune scelte che tu non capisci bene. E allora lui dà un insegnamento semplicissimo ma straordinario. Ti dice: se un sentimento si presenta a te ed è attraente, è dolce, tu lo prendi, lo vivi. Ma se alla fine ti lascia l'amarezza dentro il cuore, non veniva da Dio. Così è la rabbia, l'ira, gli scatti. Al momento ti attirano, ti seducono, no? E se non ti arrabbi... devo star zitto, ma alla fine ti lascia dentro l'amarezza. Se avessi taciuto, Al contrario, la pazienza, la dolcezza, la bontà, in una discussione all'inizio ti sembrano cose non buone, fai la figura del pauroso, la figura di chi non reagisce. Ma se tu riesci a vivere questo sentimento di non reazione, di silenzio, di pazienza, alla fine ti lascia la pace, la dolcezza. Sembra una regola semplicissima, ed è semplicissima, ma guardate che è infallibile, Proviamo a pensare nella nostra vita alle scelte che abbiamo fatto, quelle che magari sono partite difficili, ma ci hanno lasciato la gioia, è secondo lo Spirito di Dio. Quelle che al momento ci hanno attirato, ci hanno sedotto, ma alla fine ci hanno lasciato dentro l'amarezza, la tristezza, il peccato, venivano dal demonio. E poi tra tutti i suoi insegnamenti ve ne voglio lasciare un secondo. Lui era un uomo d'arme, lui era un soldato, e tanti suoi ragionamenti risentono dalla sua formazione guerriera. Lui dice: il diavolo fa come un comandante di un esercito. Prima di attaccare battaglia, dall'alto magari di una collina, studia l'esercito avversario, e quando vede che ha un punto debole, lì sferra l'attacco. Così è per noi. Satana ci conosce molto bene. Conosce quali sono i nostri punti deboli e ci attacca proprio lì, perché è sicuro di avere più forza di sfondamento. Sembra una regola banalissima, no? Ma se uno sa che il suo punto debole è il carattere, rafforzalo. Tu sai che il punto debole tuo è la lussuria, è l'impurità, rafforzalo. Tu sai che il tuo punto debole è l'attaccamento ai soldi, rafforzalo, e così via. Tu sai che è la pigrizia, tu sai che il tuo punto debole è la vanità, il tuo punto debole è la lingua. Satana ti attaccherà in questi punti deboli. Chiediamo al Signore di rafforzare le nostre difese lì.